Ad alta voce Elisabetta Piccolomini legge L'Edera di Grazia Deledda. Nona puntata. Santos non sapeva leggere. Paolo gli consegnò il biglietto appena piegato, l'altro lo prese, lo mise nella borsetta della cintura e promise di consegnarlo solo ad Annessa. E proseguì il viaggio, spingendosi avanti il fanciullo taciturno e fermandosi con tutti i viandanti che incontrava per raccontar loro la sua storia. E non pensava che dentro la borsetta della sua cintura portava il seme d'un dramma ben più terribile del suo. Paolo, nonostante le rimostranze già fatte da Don Peu, smontò ancora dalla vedova del brigadiere. Nessun progetto lo guidava, ma dopo aver scritto e consegnato il biglietto per Annessa, s'era sentita ancora più triste, più inquieto. Il proposito di non ritornare senza i denari gli dava una specie di ossessione. «Ho ancora 5 giorni di tempo», pensava. Dovessi girare come quel disgraziato Santos, ma non tornerò a casa a mani vuote. Ormai è per me una questione d'onore. Dove andare però? Ricordò gli usurai di Nuoro e fra gli altri una donna che anni prima gli aveva prestato 1000 lire al 300%. Che differenza esiste tra un'usuraia simile e una vedova che non gode ottima fama? Si domandò. Ma quando scese davanti alla botteguccia di Zana e vide la donna correre alla porta e sorridergli con familiarità, come se l'avesse atteso, certa del suo ritorno, provò un impeto di disgusto. No, egli non le avrebbe domandato mai i denari. «Ah!» disse Zana prendendo per la briglia il cavallo di Paolo. «Lei non ha dimenticato il resto, a quanto vedo!» Spinse il portoncino attiguo alla porta e introdusse il cavallo nel cortiletto. Paolo la lasciò fare, la seguì, si levò lo sprone, ma non pareva disposto a scherzare. Zana invece sembrava allegra. Non era più la vedova compassata e seria che vendeva i lucignoli nella botteguccia o serviva decorosamente gli avventori nella retrobottega. Era una donna bella e giovane che da 3 giorni pensava agli occhi dolci e allo sguardo languido del nobile amico di Don Peu. «Sono sola in casa», disse dopo aver legato il cavallo. «La serva è andata a lavare, non ho potuto preparare niente, bisogna quindi che lei abbia pazienza». Era quasi mezzogiorno. Il silenzio tragico dei giorni annuvolati regnava sul paesetto, sul cortile, sulla casa della vedova. Paolo entrò e sedette davanti alla tavola apparecchiata sulla quale stava ancora la carta di musica. Dalla parete color sangue coagulato il brigadiere guardava, ancor più pacifico del solito, nella penombra silenziosa di quel giorno velato e caldo. Paolo mangiò poco e bevette molto, e più beveva più gli pareva che la sua mente, annuvolata come il cielo, si schiarisse e che molti problemi si risolvessero. Che differenza c'è tra un'usuraia e una vedova come Zana? Nessuna. Ciò che vale l'una vale l'altra. Zana entrava ed usciva, gli servì una scatola di sardine, poi 2 uova, poi un piatto di fritto. Come? E tu dicevi che non avevi niente, purché dopo non mi porti un conto troppo lungo. Zana lo guardava sorridendo. Era il mio modesto desinare, Don Paolo, non si burli di me. Come? Egli disse alzandosi. Il tuo desinare, e tu allora come farai? Non pensi a me, Don Paolo. Ma egli era già mezzo brillo e stette un momento in piedi, comicamente mortificato per aver mangiato il pranzo di Zana. Poi rise e disse: pensare che oggi a casa mia si dà un pranzo a 6 poveri e mia madre in persona deve servirli. Sulla tavola stanno le nostre più belle stoviglie e le posate d'argento, e io sto qui a mangiare il pranzo della vedova. Sua madre deve servirli. È un voto? No, è un lascito, o meglio, un canone che grava su una nostra tanca. Subito pensò che forse quel pranzo dei poveri era l'ultimo che la sua santa madre serviva, e si fece cupo, quasi livido. E l'idea di farsi prestare i soldi dalla vedova tornò a insistergli nel pensiero. Tutti gli anni donna Rachele faceva chiamare qualche donna del vicinato per aiutare Annessa a preparare il pranzo dei poveri. Quell'anno però Annessa disse che non voleva aiuto da nessuno. Era già troppa la spesa del pranzo. Parecchi scudi, che ella diceva, buttati ai cani e ai corvi. Anche Paolo ogni anno protestava e il giorno del pranzo dei poveri non tornava a casa per non arrabbiarsi nel veder la madre affaticarsi e abbassarsi a servire 6 pezzenti miserabili. Ma donna Rachele, con la sua santa pazienza, lasciava borbottare i ragazzi e aspettava quasi con ansia quel giorno per lei benedetto. Pensava: Gesù, nostro Signore, lavava i piedi ai poveri. Anche io vorrei fare altrettanto coi poveri seduti alla mia mensa. Da anni ed anni, forse anzi da secoli, una dama de Cherchi compiva il sacro obbligo di servire con le sue mani 6 poveri modesti di cui possibilmente fosse celata l'indigenza. E donna Rachele s'era sempre opposta alla vendita della tanca gravata di quel canone, appunto perché aveva cara la pietosa cerimonia. Così la tanca era rimasta l'ultima, ma ora bisognava rassegnarsi alla violenza inesorabile degli eventi. Pazienza. D'altronde Paolo non era tornato ancora, e l'ultima speranza di donna Rachele e dei nonni era riposta in lui. Basta, l'anno venturo sarò forse morta. Pensiamo a fare bene il nostro dovere quest'anno, diceva la pia donna ad Annessa, inquieta e nervosa. Quasi tutti gli anni i 6 poveri modesti che convenivano segretamente al pranzo erano gli stessi, e nonostante il mistero che li circondava, buona parte degli abitanti di Barunei sapeva che il tal giorno e alla tale ora i 6 tali mangiavano con forchette d'argento e serviti da una dama. Ogni anno la sera del pranzo il messo, che era mezzo matto, si divertiva a passare davanti alle case dei poveri chiamandoli a nome e rivolgendo loro qualche scherzo umiliante. «Chircupira, vieni fuori, di, mangi anche stasera con la posata d'argento?» «Matteo Bette, che ne dici? È meglio mangiare la minestra col cucchiaio d'argento o col cucchiaio di legno?» «Ti lecchi ancora le dita, miale caschitta!» La vigilia del pranzo, zia Anna, la vecchia cugina di donna Rachele, si offrì per aiutare Annessa. «Così vedrò di scegliermi uno sposo tra i vostri ricchi invitati», disse scherzando. «Vieni pure», rispose la vedova, «ma bada che a tavola devo servire io sola, non voglio che tu mi aiuti». «E come si fa allora? Non posso guardare gli invitati». La mattina per tempo zia Anna ritornò e subito ricominciò a scherzare. Disse che uno degli invitati, un certo Matteo Corbu, detto Ventre di Leone, l'aveva una volta chiesta in matrimonio. «Non l'ho voluto perché era un mangione, tant'è vero che si è mangiato tutto, avrebbe finito di mangiarsi anche la moglie». Ma Annessa non badava zia Anna, cucinava e pensava con angoscia a Paolo, assente da 3 giorni. Dove era? Perché non tornava? Le parole di lui le ritornavano in mente con sempre più cupa minaccia. «È l'ultimo viaggio questo, o trovo o non torno». Ogni tanto, quando nella straducola risuonava il passo d'un cavallo e la palpitava, ma non era il passo del cavallo baio, la speranza svaniva, l'inquietudine cresceva. Come al solito, ella vestiva decentemente, pulita, pettinata con cura, ma donna Rachele, che entrava ed usciva dalla camera alla cucina e da questa al cortile dove era acceso il fuoco per cuocere la pasta, notava in lei qualche cosa di insolito e di strano. «A momenti sei pallida, a momenti il tuo viso è infiammato», le disse sfiorandole con le dita la fronte. «Che hai? Sei malata? Sei stanca?» «Ma niente, il calore del fuoco», disse Annessa irritata. Anche zia Anna la guardò e non scherzò più. Dagli occhi, dolci e tristi di Annessa, era scomparsa la solita mansuetudine. A momenti splendevano ad una luce selvaggia, fissi e incoscienti come gli occhi d'un allucinato. «La ragazza oggi è di malumore, lasciamola tranquilla. È in collera perché non voleva che quest'anno si desse il pranzo», confidò donna Rachele alla cugina. Zia Anna veramente non dava torto ad Annessa, dal momento che fra pochi giorni la tanca doveva essere messa all'asta. Era stupido soddisfare il canone, ma non disse nulla e continuò a girare lo spiedo sulla brace fumante. Nella camera del vecchio asmatico la tavola era già apparecchiata. Sulla tovaglia giallognola le ultime 6 posate d'argento stavano accanto ai piatti bianchi sparsi di fiorellini rossi. Già 2 invitati, 2 vecchi fratelli, Kirku e Predu Pira, sedevano davanti al lettuccio dell'asmatico. Erano 2 vecchi disgraziati, di buona famiglia, che avevano tentato sempre qualche negozio, qualche impresa e sempre fallito. Vestivano decentemente in borghese, ma i loro visi bianchi, cascanti, le mani scarne, gli occhi pieni di tristezza, narravano una lunga storia di dolore e di stenti. Poveri modesti, veramente, dei quali però l'indigenza era ben nota. E donna Rachele li aveva invitati per far piacere a Ziu Zua, del quale il meno vecchio, Kirku, era stato amico intimo. Mentre si aspettavano gli altri invitati, Ziu Zua approfittava dei momenti in cui donna Rachele usciva nel cortile per parlare male dei suoi parenti. La sua voce bassa e ansante si spandeva come un gemito nella camera melanconica. Dalla finestra socchiusa penetrava un filo di luce grigia, un odore di foglie umide. Tutto era triste là dentro. Il vecchio cadaverico, la tovaglia giallognola, i 2 fratelli dal viso bianco di fame. Ziu Zua parlava male di tutti, persino di Rosa. «Cosimo Damiano è andato in campagna oggi, può lavorare, il vecchio fannullone. Adesso che la sua bocca è vicina alla fossa, può lavorare adesso, dopo che ha vissuto tutta la vita alle spalle degli altri. E Don Simone è andato a spasso, ha bisogno di camminare per farsi venire l'appetito, il vecchio nobile. Passeggia pure, caro mio. L'anno venturo l'invitato sarai tu al pranzo dei poveri, invitato dal nuovo padrone della tua tanca». I 2 vecchi sorrisero tristemente, ma il più anziano, al quale l'asmatico riusciva alquanto odioso, per fargli dispetto disse: «Paolo porterà oggi denari. Dicono sia andato a Nuoro, dove...» «Taci!» interruppe Ziu Zua, cercando di sollevarsi sul guanciale e animandosi cupamente al ricordo di Paolo. «Corni porterà quel vagabondo, quel giramondo, e chi gli fa più credito? Tutti ridono di lui, tutti, sì, tutti. La collera lo soffocava. Il vecchio Pira s'alzò e gli accomodò il cuscino sulle spalle. «Non adirarti così, Zua, ti fa male». «Mi adiro sì, perché vedi, tutti credono che egli sia in viaggio per affari suoi, per...» «Basta, invece è in giro per divertirsi, lo sappiamo», disse Kirku Pira cercando di calmare l'amico. «Lo sappiamo. Sì, vecchi miei, è andato alla festa di Sant'Isidoro e si è fatto prestare i denari. Non pensa che fra 5 giorni si farà la prima asta della casa e della tanca? Non ci pensa, come del resto nessuno ci pensa qui. Oh, sono tutti allegri, se ne infischiano loro. Vedete Don Simone, egli se ne va a passeggio per farsi venire l'appetito. Sperano forse che io muoia entro questi 5 giorni, ma la mia pelle è dura e dentro la mia pelle ci stanno 7 anime come le ha il gatto. Non morrò, vecchi miei, e se morrò c'è qualcuno che verrà a vedere. Verrà a vedere. Che cosa verrà a vedere, Zua? Non adirarti, ripeté il vecchio amico, ti farà male. Ma l'altro fratello insisté. Che verrà a vedere? Ma l'asmatico s'era già pentito delle sue parole e non volle dire altro. Quante mosche, si lamentò scuotendo lentamente la mano intorno al cui polso teneva il rosario. Che brutta giornata, quando fa questo caldo afoso, soffro tanto. Ieri notte credevo davvero di soffocare. E quell'asina di Annessa, buona anche quella, mala fata la porti, mi guardava come se avesse voluto... Ah, ecco che vengono. Qualcuno entrò. S'udì nell'andito il riso melanconico di Rosa ed ecco la testa enorme, gli occhi vivi, il vestitino rosso e azzurro della bimba e dietro di lei il vestito nero, il bastone, il berretto di Don Simone. Il vecchio nobile sembrava più allegro del solito, scherzava con la bambina tirandole la cocca del fazzoletto che le avvolgeva la testa e dicendole infantilmente «Avanti, puledrina, cammina!» Ziu Zua lo guardò con disprezzo. Poi giunsero gli altri invitati, dei quali uno solo era giovanissimo, cieco, sin dall'infanzia. Don Simone sedette a tavola coi poveri, cosa che non aveva fatto mai, e volle Rosa al suo fianco. «Donna Rachele!» gridò scherzando. «Siamo pronti! Avete sbagliato il numero però quest'anno. Invece di 6 avete invitato 7 poveri, anzi 7 e mezzo!» Rigida e pallida nel suo costume nero, Donna Rachele entrò portando un largo piatto colmo di maccheroni. Sorrideva. Ma quando vide il vecchio suocero seduto tra i poveri commensali, trasalì e lacrime amare inumidirono i suoi occhi. Egli però la guardava sorridendo, con gli occhi pieni di gioia, ed ella pensò: pare che voglia dirmi qualcosa, una buona notizia forse, che gli abbia scritto Paolo. Durante il pranzo Don Simone scherzò, ma la sua presenza intimidiva alquanto gli invitati. Egli cominciò a prenderli in giro, bonariamente. Zia Anna era in cucina. Annessa serviva il vecchio asmatico. Donna Rachele uscì nel cortile e si chinò per togliere lo spiedo dal focolare. Don Simone allora le disse rapidamente: «Prete Virdis mi ha confidato una cosa, ma in gran segreto. Egli ha convinto Zua a comprare la casa e la tanca, così tutto si accomoderà, ma per amor di Dio non parlarne con nessuno, nemmeno con Annessa». Quando la vedova entrò portando l'arrosto, tutti si accorsero che ella aveva mutato aspetto. Una gioia quasi febbrile le animava lo sguardo, parole di amore e di dolcezza le uscivano dalle labbra lievemente colorate. Anche Annessa s'accorse di questa eccitazione, ma l'attribuì al piacere quasi mistico che la santa donna provava nel servire i poveri. E la sua tristezza e la sua irritazione crebbero. A momenti anche lei pensava male dei suoi benefattori. Sì, davvero, faceva rabbia vederli così incoscienti e allegri alla vigilia della loro completa rovina. E Paolo che non tornava. Dov'era Paolo? Il pensiero di Annessa lo cercava, lo seguiva per l'immensità deserta delle Tancas, attraverso i sentieri melanconici, sotto quel cielo cupo e minaccioso che anche sopra di lei, sopra la sua testa dolente, pareva pesasse come una volta di pietra.